Durante questi ritorni, come all'andata, dicevo ad Albertin di mettersi in ordine, perché ero sicuro che a Damenoncourt, ad Oncières, a Depréville, a Saint-Vaast, avremmo ricevuto qualche breve visita. La cosa, d'altronde, non mi era sgradita, si trattasse a Ermenonville, il dominio di Erimond, del signor di Chevregny, che approfittava d'essere venuto a prendere degli ospiti per invitarmi a colazione l'indomani a Montsorvan, oppure ad Oncières, dell'improvvisa irruzione d'uno dei deliziosi amici di Saint-Leu, mandato da quest'ultimo, se non era libero lui stesso, a trasmettermi un invito del capitano de Borodinot, della mensa ufficiali al Coq Hard, o dei sottufficiali al Faisan Doré. Saint-Leu veniva spesso di persona, e per tutto il tempo che era lì io tenevo Albertine, senza farmene accorgere, prigioniera del mio sguardo, d'altronde inutilmente vigile. Una volta, tuttavia, sospesi la sorveglianza. Il treno faceva una lunga sosta e Bloch, dopo averci salutati, scappò via quasi subito per raggiungere suo padre, il quale aveva ereditato dallo zio e, preso in affitto un castello chiamato la Commanderie, trovava molto gran signore circolare esclusivamente su una specie di diligenza, con postiglioni in livrea. Bloch mi pregò d'accompagnarlo fino alla vettura. «Ma affrettati, perché quei quadrupedi sono impazienti. Vieni, uomo caro agli dèi, farai piacere a mio padre». Ma soffrivo troppo a lasciare Albertine sul treno con Saint-Leu. Avrebbero potuto, non appena io avessi voltato la schiena, parlarsi, andare in un altro scompartimento, sorridersi, toccarsi. Il mio sguardo incollato ad Albertine non poteva staccarsene finché c'era Saint-Leu. Ora mi accorsi benissimo come Bloch, che mi aveva chiesto a titolo di favore d'andare a salutare suo padre, trovasse innanzitutto poco gentile il mio rifiuto, non essendovi in realtà nessun ostacolo, già che i ferrovieri avevano avvertito che il treno sarebbe rimasto fermo in stazione almeno un altro quarto d'ora e quasi tutti i viaggiatori, senza i quali non sarebbe comunque ripartito, erano scesi. E come subito dopo si convincesse che la ragione, il mio comportamento in questa circostanza gliene dava un responso decisivo, era senz'altro il mio snobismo. Bloch, infatti, non ignorava il nome delle persone con cui mi trovavo. In effetti, il signor di Charlus mi aveva detto poco tempo prima, senza ricordarsi o curarsi del fatto che la cosa era già avvenuta chissà quando, e allo scopo di avvicinarsi a lui: «Ma presentatemi dunque il vostro amico. La vostra è una mancanza di rispetto nei miei confronti». E aveva conversato con Bloch, che era parso piacergli moltissimo, al punto che l'aveva gratificato di uno spero di rivedervi. «Allora è irrevocabile? Non vuoi fare questi 100 metri per dire buongiorno a mio padre, che ne sarebbe tanto felice?» mi chiese Bloch. Ero desolato di dar l'impressione di mancare ai doveri dell'amicizia, più ancora della ragione per cui Bloch credeva che lo facessi, e di sentire come egli pensasse che non ero lo stesso con i miei amici borghesi quando c'erano persone di nascita. Da quel giorno non mi dimostrò più la stessa amicizia, e cosa che mi riusciva più penosa, non ebbe più la stessa stima per il mio carattere. Ma per toglierlo d'inganno circa il motivo che mi aveva fatto restare sul treno, avrei dovuto confessargli qualcosa, la mia gelosia per Albertine, che mi sarebbe riuscito ancor più doloroso del lasciargli credere che fossi stupidamente mondano. Così, in teoria, diciamo che bisognerebbe sempre spiegarsi francamente, evitare i malintesi. Ma molto spesso la vita li combina in modo tale che per dissiparli, nelle rare circostanze in cui sarebbe possibile, si dovrebbe rivelare o qualcosa, non è questo il caso, che offenderebbe il nostro amico più ancora del torto immaginario che ci imputa, o un segreto la cui divulgazione, ed era ciò che m'era appena capitato, ci sembra ancor peggio del malinteso. E d'altra parte, anche senza spiegare a Bloch, poiché mi era impossibile, la ragione per cui non l'avevo accompagnato, se l'avessi pregato di non aversela male, non avrei fatto che raddoppiare il suo risentimento, dimostrandogli che me ne ero accorto. Non c'era niente da fare, bisognava inchinarsi davanti a quel fatum che aveva voluto che la presenza di Albertin mi impedisse di accompagnarlo, e Bloch potesse credere che a impedirmelo fosse stata invece la presenza di persone brillanti, le quali, quando anche lo fossero state 100 volte di più, sarebbero riuscite soltanto a farmi occupare esclusivamente di Bloch, riservandogli tutta la mia cortesia. Basta così che fortuitamente, assurdamente, un incidente, qui la presenza contemporanea di Albertine e di Saint-Loup, si interponga fra due destini le cui linee convergevano l'una verso l'altra perché essi vengano deviati, si allontanino in misura crescente e non si incontrino mai più. Ed è capitato ad amicizie più belle di quella che Bloch aveva per me di trovarsi distrutte, senza che l'autore involontario della rottura abbia mai potuto spiegare all'altro ciò che di sicuro avrebbe blandito il suo amor proprio e richiamato la sua simpatia che andava dileguando. Amicizie più belle di quella di Bloch non è del resto dire gran cosa. Egli aveva tutti i difetti che mi davano più fastidio. La mia tenerezza per Albertin veniva, per puro caso, a renderli definitivamente insopportabili. Così, nei brevi momenti in cui, sempre sorvegliando Robert con la coda dell'occhio, conversai con lui, Bloch mi disse di essere stato a colazione da Madame Bontemps e che tutti avevano parlato di me con gli accenti più lusinghieri sino al declino di Helios. Bene, pensai, siccome Madame Bontemps considera Bloch un genio, il suffragio entusiastico che m'avrà accordato farà più di ciò che chiunque altro abbia potuto dire e arriverà sino ad Albertin. Da un giorno all'altro verrà di certo a sapere, mi stupisco anzi che sua zia non gliel'abbia già riferito, che io sono un uomo superiore. Sì, aggiunse Bloch, tutti hanno tessuto i tuoi elogi. Io solo ho osservato un silenzio altrettanto profondo che se avessi ingerito, anziché il pasto, peraltro mediocre, che ci veniva servito, i papaveri cari al beato fratello di Thanatos Elete, il divino Hypnos, che avvolge con dolci lacci il corpo e la lingua. Non ch'io t'ammiri meno della banda di avidi cani assieme ai quali m'avevano invitato, ma io ti ammiro perché ti capisco, mentre loro ti ammirano senza capirti. Per meglio dire, ti ammiro troppo per parlare di te così davanti a tutti. Mi sarebbe parso una profanazione lodare ad alta voce qualcosa che custodisco nel più profondo del cuore. Con vana insistenza mi interrogarono sul tuo conto. Un sacro pudore, figlio di Cronion, mi fece restar muto. Non ebbi il cattivo gusto di mostrarmi scontento, ma quel pudore mi parve imparentato assai più che con Cronion col pudore che impedisce a un critico che vi ammira di parlare di voi perché il sacro tempio in cui troneggiate sarebbe invaso dalla turba dei lettori ignari e dei giornalisti, col pudore dell'uomo di Stato che vi rifiuta una decorazione perché non veniate confuso con gente indegna di voi, col pudore dell'accademico che non vota per voi per risparmiarvi la vergogna di diventare colleghi di X, il quale non ha talento, col pudore, infine, più rispettabile e tuttavia più criminale, dei figli che ci pregano di non scrivere nulla sul defunto loro padre, che ha avuto tanti meriti, per assicurare il silenzio e il riposo, per evitare il permanere della vita e il sorgere della gloria attorno al povero morto, il quale preferirebbe il proprio nome pronunciato da bocche umane alle corone deposte molto piamente, peraltro, sulla sua tomba. Se Bloch, nel momento stesso in cui mi rattristava non potendo comprendere la ragione che mi impediva d'andare a salutare suo padre, mi aveva esasperato, confessandomi d'avermi messo in cattiva luce presso Madame Bontemps, adesso capivo come mai Albertin non mi avesse fatto cenno di quella colazione e perché restava in silenzio quando le parlavo dell'affetto di Bloch per me. Il giovane israelita aveva ispirato al signor di Charlus ben altro sentimento che l'irritazione. Sicuramente adesso Bloch non credeva soltanto che io non potessi allontanarmi neppure un secondo dalle persone eleganti, ma anche che, geloso delle profferte che costoro, per esempio Charlus, potevano avergli fatto, cercassi di mettergli i bastoni fra le ruote e impedirgli di diventar loro amico. Mentre da parte sua il barone rimpiangeva di non aver frequentato di più il mio compagno. Secondo le sue abitudini, evitò di darlo a vedere. Cominciò col pormi, facendo finta di niente, alcune domande su Bloch, ma in tono così indifferente, con un interesse apparentemente così simulato, che nessuno avrebbe pensato che stesse ad ascoltare le mie risposte. Con aria distaccata, su una melopea che esprimeva più che indifferenza, distrazione e come per semplice cortesia nei miei confronti, sembra intelligente. Ha detto che scrive. Ha talento? Dissi a Charlieu in risposta che era stato davvero gentile a dire a Bloch che sperava di rivederlo. Nessun movimento rivelò che il barone avesse udito la mia frase e quando gliel'ebbi ripetuta 4 volte senza ottenere risposta, finì col dubitare d'essere stato vittima d'un miraggio acustico quando m'era parso di sentire quelle parole di Charlieu. «Abita a Balbec», cantilenò il barone, in un tono tanto scarsamente indagatore da far rimpiangere che la lingua francese non possieda un segno diverso dal punto di domanda per concludere una frase apparentemente così poco interrogativa. «È vero?» che un tale segno servirebbe in pratica solo per il signor di Charlieu. No, hanno preso in affitto qui vicino la commanderie. Saputo quel che voleva sapere, Charlieu finse di disprezzare Bloch. «Che orrore!» esclamò, restituendo alla sua voce tutto il suo squillante vigore. «Le località o proprietà chiamate la commanderie sono state tutte abitate o possedute dai cavalieri dell'ordine di Malta, al quale io appartengo, così come i luoghi detti le temple o la cavalerie lo sono stati dai templari. Se io abitassi alla commanderie, sarebbe la cosa più naturale del mondo, ma un ebreo. Del resto la cosa non mi stupisce. Nasce da un bizzarro gusto del sacrilegio, tipico di quella razza. Non appena un ebreo ha denaro sufficiente per comperare un castello, ne sceglie sempre uno che si chiami le priorè, l'abbaye, le monastère, la maison Dieu. Ho avuto a che fare con un funzionario ebreo. Indovinate un po' dove abitava? A Pont-l'Évêque. Caduto in disgrazia, si fece trasferire in Bretagna, a Pont-l'Abbé. Quando durante la Settimana Santa si danno quegli indecenti spettacoli chiamati La Passione, metà del teatro è piena di ebrei, esultanti al pensiero di mettere una seconda volta Cristo in croce, almeno in effigie. Al concerto Lamoureux, un giorno, avevo come vicino un ricco banchiere ebreo. Eseguirono L'Enfance du Christ di Berlioz. Era costernato, ma riacquistò subito l'espressione di beatitudine che gli è abituale ascoltando l'incantesimo del Venerdì Santo. «Il vostro amico abita alla commanderie, quel disgraziato! Che sadismo! Mi indicherete la strada», aggiunse riprendendo un tono indifferente, «perché io possa andare un giorno a vedere come i nostri antichi domini sopportano una simile profanazione. È un peccato, perché è una persona cortese e sembra intelligente. Non gli mancherebbe più che di abitare a Parigi in Rue du Temple». Si sarebbe detto che Charlieu, con queste parole, volesse solo fornire un nuovo esempio come supporto alla sua teoria. Ma in realtà mi ponevo una domanda a doppio fine e il principale era sapere l'indirizzo di Bloch. In effetti, fece notare Brichot, Rue du Temple si chiamava Rue de la Chevalerie du Temple e a questo proposito, barone, mi consentite un'osservazione? Aggiunse l'universitario. «Come? Che cosa?» disse seccamente Charlieu, al quale quell'intervento impediva di ottenere l'informazione desiderata. «Niente, niente», rispose Brichot intimidito. Era a proposito dell'etimologia di Balbec che m'era stata chiesta. Rue du Temple in altri tempi si chiamava Rue Bar du Bec, perché era lì che a Parigi venivano chiamati alla sbarra gli imputati dei processi riguardanti l'abbazia di Le Bec in Normandia. Charlieu non aprì bocca, e fece finta di non aver sentito, il che era in lui una manifestazione di insolenza. «Dove sta a Parigi il vostro amico? Dal momento che tre quarti delle vie prendono nome da una chiesa o da un'abbazia, è probabile che il sacrilegio continui. Non si può impedire agli ebrei di abitare in Boulevard de la Madeleine, in Faubourg Saint-Honoré o in Place Saint-Augustin. Finché non si spingono per raffinata perfidia ad eleggere domicilio in Place du Pavis Notre-Dame, Quai de l'Archevêché, Rue Chanoinesse o Rue de l'Ave Maria, bisogna concedere loro l'attenuante delle difficoltà».